Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ciao, è un risultato storico. Roma, il Movimento 5 Stelle ha vinto per la prima volta un sindaco donna. Dobbiamo ringraziare il Movimento 5 Stelle. Ciao, caro Oscar. Ciao, buongiorno. Non ciaone come titolo al giornale, esatto. Oggi l'hai visto il giornale che sì, ciaone Renzi. Allora, ciao a te, naturalmente bentornato. Prima di tutto ci sei mancato, però noi non ti avevamo mai dimenticato. Ma lo sapevamo che ti eri mantenuto questa settimana perché sapevi che avveniva quello che è avvenuto ieri. No, sei per i botti. Perché per così, i botti. Per i botti oggi. Perché insomma, giornata di botti, diciamolo. Come no. Dei bei botti belli pesanti. Sì. Caro Oscar, però i santi ci sono anche oggi, no? Santi ci sono anche oggi, ma in realtà, pensateci ragazzi, nel 1979, oggi, questo giorno, per la prima volta avevamo un presidente del Parlamento, della Camera dei Deputati, meglio, donna, Nilde Iotti. E oggi, in questo anniversario, abbiamo un bel po' di sindaci donna per la prima volta nella storia. È vero, perché Roma addirittura il primo sindaco donna nella storia. Esattamente, quindi questo è l'anniversario. Intanto, i santi. C'è un santo particolare che a Torino è una santa, perché è la Consolata, la Madonna della Consolata, che è la patrona dell'arcidiocesi. Quindi la nuova sindaca, Chiara Appendino, è nel nome della protezione della Madonna Consolata, che ha abbandonato quelli che forse un po' troppi decenni aveva protetto, e questo è il santo del giorno. Poi Sant'Ettore, Sant'Eliada, San Metodio, eccetera eccetera, però è la Consolata Santa di Torino, quindi elettori, vi siete ispirati in un certo modo, per così dire. Oggi è la giornata mondiale delle Nazioni Unite dei profughi, e anche questo è un tema che credo poi vedremo tra Brexit eccetera eccetera, avrà una certa importanza questa settimana. Eh sì. Caro Oscar, allora non so neanche da dove cominciare. Intanto il numero di telefono, chiamateci all'800 24. Per dirci come l'avete vista e come la considerate questa giornata di scelta. Eh sì, allora Roma e Torino al 5 Stelle, a Milano vince Sala. È l'unica cosa a cui può aggrapparsi, secondo te, Renzi a questo punto? Beh, se uno vede il risultato complessivo, insomma, dei 20 ballottaggi in cui erano 5 Stelle e PD, 19 vanno ai 5 Stelle. Quindi il segno è chiaro: Renzi ha voluto fin dal 2013 impostare la scena politica italiana come un grande contrasto tra io sono l'unico professionista, tutti gli altri o guffi o non capiscono, o dei dilettanti che non sapreva nelle cui mani non vi mettereste mai. Beh, lo schema non funziona, lui è diventato il vecchio con poteri costituiti come la vecchia politica, e con i 5 Stelle, pensiamo all'Italia, perde. Questo è poco, ma infatti nel consueto retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere, sai che va sempre a analizzare quello, però Renzi dice ai suoi collaboratori: dove ci presentiamo col 5 Stelle prendiamo batoste. Ma lo schema dell'Italia lui l'ha voluto da sempre così, però sì. Perché dicendo con loro tanto vinciamo, perché l'Italia non può avere dubbi su chi sa fare le cose e chi no. E no, e invece lui appare oramai così, ripeto, con le mani in pasta, così anche un po' arrogante, diciamo, perché alla fine perde. Questo è il primo dato. Secondo, chi vince del PD, tranne Sala, questo va detto, perché Sala è in continuità con Pisapia, però l'ha voluto lui, il candidato l'ha scelto lui, questo bisogna dargli atto. Ma per questo, sai, Merola è uno che ha votato referendum alla CGIL contro il Jobs Act, per dirne una, e ieri sera aveva delle dichiarazioni uliviste dicendo il segretario deve piantare di non pensare alle periferie, al partito, eccetera. Questo Merola. Sentiamo la Serracchiani a casa sua, a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, perde pesantemente. Ha vinto il centrodestra, esatto. Anche a Grosseto ha vinto il centrodestra, per Savone. Dire, no? C'è anche l'affermazione di Gigi De Magistris, era abbastanza scontato dopo il primo turno, ma in queste proporzioni no. Ma infatti è incredibile, tra l'altro, perché non ha un partito dietro De Magistris, no. Non ha un partito di credo riferimento, credo che lo voglia fondare un movimento politico del sud, una specie di Lega del Sud in nome del sud dimenticato dal nord, e dici, da Renzi la sua. Secondo me è probabile, ho visto la dichiarazione del sindaco di Palermo già pronto a una cosa di questo genere. Dopodiché lui incarna esattamente questo, cioè la sua dichiarazione ieri, il modo in cui in città De Magistris ha vissuto il suo trionfo, è quello di presentare una sfida addirittura personale alternativa a Renzi, non è neanche al PD, lui la mette su Renzi. Renzi dimentica il Sud, il nostro è una rivoluzione governata, lui dice, cioè è una forma radicale di contestazione. Insomma, io la chiamo la Lega del Sud, ma per intenderci, no, non perché siano gli stessi temi, ma è la stessa radicale impostazione. Del centrodestra, a dire la verità, anche se l'unico posto dove compresi arrivano quasi a un millimetro dal vincere, mi sembra che le reazioni siano subito per rompere la scelta che avevano fatto a Milano. Vedo la Salvini che dice no, basta candidati moderati e così via, eppure la Lega mi pare che avendo perso Varese, essendo stata, non ha fatto un bel voto certo rispetto alle sue aspettative su Milano e così via, non so da dove tragga questa ispirazione, però mi pare che la retorica 5 Stelle lasci tutti abbastanza con la testa un po' risuonante. Sì, ora ovviamente bisognerà vedere, certamente un elemento che il Messaggero faceva e metteva in risalto è questo: il Partito Democratico a Roma, e Giachetti ha detto è stata una zavorra il partito più che un aiuto, e questo al primo turno al 17%. Se uno pensa al famoso 43%, è vero che erano le europee, era un'altra votazione, però 17%, insomma, è il risultato più basso del PD. Il conto verrà presentato a Orfini, credo, anche il se conto, poi è un conto precedente dei Bettini, delle cose così, però il conto amaro sarà presentato a Orfini. Ma se andiamo a vedere, in realtà, ripeto, tranne Bologna e così via, per il PD in quanto PD, senza liste collegate, beh, Napoli, lasciamo perdere, Napoli non ma sono anche, neanche andate, ma anche a Torino e così via, cioè ci sono dei segnali grandi come grattacieli che con questo schema secondo me perdono. Adesso io non so Renzi come potrà cambiare l'impostazione così fortemente personalizzata. Beh, dice ho rottamato troppo poco. Ha rottamato troppo poco. Questa pare la sua prima reazione. Però lui appare rottamando oramai, cioè troppi poteri costituiti. Quando gli dicono banche, cose eccetera, toccano dei punti veri. Vedremo le elezioni 26 in Spagna. Le elezioni 26 in Spagna, secondo me, vedranno, dicono i sondaggi, non Giannino, però Podemos e Pablo Iglesias rubare molti voti ai socialisti diventerà la prima forza politica, perché anche lì Sanz molto responsabile, molto pieno di sé, ma appare come il passato da rottamare. Questo è un po' il rischio, che Renzi in 3 anni sembri anche lui il passato da rottamare. Il passato. Allora vediamo, ora bisognerà anche capire quanto tempo verrà dato al Movimento 5 Stelle, sia zero. A Torino, soprattutto anche a Roma, a dire lo sai, zero. Tra 3 giorni inizieranno a dire beh insomma con Virginia Raggi cosa si in vede primis di nuovo? Sanno molti autorevolissimi colleghi che sorcono la faccia di fronte a questo e che adesso sfodereranno spadoni critici che hanno tenuto ben rinfoderati per tanto tempo. Sì. Invece io avrò anche il gusto di vedere molti colleghi giornalistoni che faranno le contorsioni per scoprirsi e riscoprirsi pentastellati della prima ora, no? Questo sarà bellissimo. Il famoso salire sul carro del vincitore. Comunque ci chiama Ernesto da Roma, vediamo che ci dice. Ernesto, buongiorno. Buongiorno a voi. Due, tre... diciamo punti di protesta. Sì. Io sono sempre stato di sinistra, ma questo giro ho votato per la Raggi. Perché? E anche la volta precedente. Perché? Perché il signor Renzi, lui dice che sta facendo le riforme, però non dice quello che sta tagliando nella sanità, se ne rendono conto solo le persone che vanno agli sportelli per fare una qualsiasi visita, per prendere un qualsiasi appuntamento e quanti soldi devono cacciare. E oltretutto, come si è comportato il signor Giachetti, perché una città come Roma che ha 13-14 miliardi di debito, lui va a dire in diretta, l'ho visto sul programma dell'Annunziata, metteremo 150 pullman nuovi. E dove i soldi questo? Vabbè, adesso basta con queste cazzate, questi politici devono sparire. Io spero con tutto il cuore che il nuovo politico che arrivi sia veramente per il popolo. Però le dice Ernesto, insomma, devono sparire i politici come si Virginia Raggi. No, infatti no, il no, titolo no, no, i vecchi politici. I vecchi politici devono sparire e le deve finire anche Renzi, che dice che fa questo rinnovamento, ma che cosa? Nella sanità sta facendo un casino, io vi pregherei di andare voi stessi a controllare. No, però è interessante quello che lei dice, Ernesto. Non so, Oscar, io riflettevo sui titoli oggi dei giornali. Pensa che l'unico grande giornale che ha messo in prima pagina Torino e Roma vince la protesta, cioè identificare il voto al Movimento 5 Stelle come un voto di protesta, è La Stampa. A Torino, Appendino, eccetera. Tutti gli altri invece dicono no, trionfo 5 Stelle. Invece ancora c'è forte il senso di dire vincono, perché in realtà è una protesta verso i vecchi partiti. Erano moltissimi gli autorevoli colleghi che dicevano che è un voto di puro protesta, no? Non lo so, a me faceva sorridere vedere un grande collega della stampa che ancora a notte tarda diceva: ah, vorrei chiedere all'Appendino perché non ci parla della Fiat. Cioè, capisci che per un grande giornalista della stampa che non abbia citato la Fiat nel suo messaggio, in cui citava Pietro Mica, il Risorgimento, a me, insomma, devo dire, mi ha colpito il messaggio dell'Appendino. E proprio il giornalista della stampa dice: come, non parla della Fiat? No, non parla della Fiat, ragazzi, è piccola, però forse un po' attesa svolta. E santo Dio benedetto, almeno il primo giorno mamma non parla mia, della no, Fiat. Ecco, allora, per dirti, ci sono un po' dei riflessi condizionati che governare nell'informazione sarà complicato, ma non credo che sarà complicato. Si vedrà immediatamente tornare a questo fiume carsi con i giornalisti puntuali sui numeri che incalzeranno con misure precise, cioè tutto quello che non abbiamo visto per un bel po' di tempo. Non lo so, intanto con dopodiché, noi... attenzione, sì. Io per primo dico che per chi pensava che ci fosse un centrodestra un po' più liberale, un po' più moderato, eccetera eccetera, la vedo difficile. Cioè, la destra più farà così, più sparirà in Italia. Cioè, la vera scelta è quella tra il PD renziano da una parte e 5 Stelle dall'altra. Questo è, che cari amici del centrodestra, meglio che ci pensate, perché siete una razza in via di estinzione. Allora, intanto ci ha raggiunto Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Buongiorno, eccoci qua, buongiorno, direttore. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, io nel titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano vedo, insomma, uno dei temi che viene affrontato un po' da tutti, cioè il Renzi bastonato, addirittura avete scritto, il PD frana. E questa, cioè, più della vittoria del 5 Stelle è la cifra di queste amministrative? È la sconfitta del PD, secondo te? No, no, sono evidentemente due elementi fortissimi del voto di ieri. Bisogna scegliere un titolo e abbiamo scelto quello che in questo momento dà, diciamo, è di più di prospettiva, perché è evidente che da questo momento in poi Matteo Renzi, ascoltavo prima l'ascoltatore che parlava della vecchia politica, che appartiene alla nuovissima politica, perché insomma è un uomo giovane, però sembra vecchio. Sì, ecco, stavo dicendo questo, è invecchiato precocemente, in 2 anni e mezzo sembra suo nonno, con rispetto dei nonni ovviamente. È evidente che Renzi dovrà decidere dopo questa batosta. Ma è una batosta, attenzione, dovrà decidere cosa fare, adesso ne parliamo tra un attimo. È una batosta soprattutto sui numeri, perché guardate, forse ne avrete già parlato, ma a Roma il fatto che la Raggi abbia doppiato Giachetti, sì, significa che non c'è soltanto la protesta, c'è proprio la rivolta, che non è... Io il titolo l'avrei fatto, rispetto a certe città di quel giorno della stampa, l'avrei fatto su una rivolta che non è in questo momento... è diventata incontrollabile. Beh, abbiamo detto che il PD è ai minimi storici a Roma, al 17%, una cosa... Sì, credo che in tutti i quartieri, in tutti i municipi abbia visto 5 Stelle, penso, adesso non voglio essere dire una cosa, visto che stanno ancora contando le schede della prima turno, esatto, in alcuni quartieri di Roma, siamo a questo livello. Sentivo Oscar Giannino che diceva una cosa che condivido, adesso già ieri sera... io ero in una trasmissione televisiva, c'era Gasparri, ma credo che interpretasse il pensiero di molti miei colleghi, diceva: adesso voglio vedere come trova la benzina per il bus dell'ATAC. Tutti al varco, no? Come se i 17 miliardi di debito, esatto, e le ruberie e lo scandalo permanente che è dell'ATAC fosse colpa della Raggi, no? Vabbè, ma adesso questo sarà, credo, Padellaro, sì, lo sport politico preferito, cioè dire: vedete che non sta facendo niente, c'è sempre il debito, evidente, e 5 evidente. Stelle dirà, giustamente, non l'abbiamo creato noi. Allora, il punto di Renzi qual è? Che adesso deve decidere cosa fare, perché se lui continua a personalizzare, per esempio, il referendum, che è il prossimo grande appuntamento, diciamo è la finalissima, visto che siamo in clima europei di calcio, no? È la finalissima. Se lui continua a personalizzarlo e a dire o con me o contro di me, credo che i contro di lui possono già la maggioranza. Secondo, sappiamo che i contenuti, se non lo personalizza, se non lo fa diventare, ma è impossibile a questo punto un referendum politico, parlare delle riforme costituzionali sarà un pochino complicato. Quindi lui che ha giocato, lui è veramente in questo un giocatore di poker, lui ha puntato tutto il piatto sul referendum e si trova in una situazione difficilissima, perché andando avanti così lo perde. Vabbè, vediamo se da qui possiamo, caro Oscar, ripartire tra qualche minuto. Ci dobbiamo fermare 3 minuti per la pubblicità. Insieme a Antonio Padellaro ci raggiungerà anche Giorgio Mulè, direttore di Panorama, per uno sguardo anche a capire anche cosa succede nel centrodestra, no? Berlusconi, hai visto che oggi dicevano Berlusconi pronto al passo di lato, insomma, non è che la vicenda politica di Berlusconi sia finita, bisogna capire come si evolve e soprattutto se il fatto che siano andati così in atti grazie a Parisi, cioè un estraneo rispetto a loro che ha usato toni moderati, vedo che invece la parte non moderata dice no, è stato un errore clamoroso. Perché già dicono che Parisi non deve essere nessun tecnico al posto di Berlusconi. Vediamo. Tra poco, state con noi. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Mattino. Eccoci qua, caro Oscar. Eccoci qua. Molti mi dicono, mi mandano messaggi personali, telefoni. Ma stai dimenticando che però metà di Milano è andata a votare. I voti da destra esistono. Quello che volete, cari ragazzi. D'accordo. Adesso sì, la destra pensa di autoattribuirsi tutti coloro che non sono andati a votare. Gli auguro veramente un grandioso futuro. Ma potrebbe farlo chiunque. Vi faccio osservare. È un problema che molti non siano andati ai ballottaggi. Però il voto è così. Il voto va a votare chi si riconosce e fa le sue scelte. Dai. Il ballottaggio è una cosa un po' diversa, secondo me. Rispetto al primo turno in cui si votano i partiti, le liste, cioè il ballottaggio. Perché io potrei dire che molti persone. Che il balzo finale è mancato a Parisi e a Milano perché non avendo fatto i nomi, ma alcuni hanno pensato: aia, questo ci mette i vecchi uomini di destra. Ma certo. E guardate che a Milano questa cosa si è sentita negli ultimi giorni. Cioè, non c'era per questa dire. Foto di Parisi a fianco a Salvini, la russa dei loro, curato, ritengono Lupi, invece, loro ritengono invece che sia stato Parisi a non. Ma Parisi è arrivato in 2 mesi e ha fatto un mezzo miracolo. Questa è la mia opinione personale. Però non avrebbe potuto però smarcarsi nettamente da già l'ha fatto tantissimo persone, molte volte su molti temi fondamentali, da immigrati, moschee, referendum. Lui ha detto io non sono uno che il referendum sono per noi e così via. Detto questo, vedremo. Questo lo dico solo per rispondere a chi fa notare che il gran parte del voto di destra significa che non è andato a votare, quindi la destra c'è. Vabbè, d'accordo. Va bene, insieme ad Antonio Padellaro ci ha raggiunto il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno a voi. Sì, vogliamo sentire che ci dice Pasquale, che ci chiama da Catanzaro, è in linea da un po'. Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Che io pensi? Volevo semplicemente dire una cosa. Renzi probabilmente da Presidente del Consiglio può anche dire che non ha responsabilità, ma come segretario del partito credo che la responsabilità ci sia. Questo non significa tirare in ballo una colpa assoluta, ma sicuramente sui territori è mancata la costruzione del partito e quando lui ha voluto vincere le primarie si è imbarcato di tutto. Padellaro, che lì lo saluto, sono Pasquale da Catanzaro, lui si ricorderà dell'esperienza di Catanzaro. A Catanzaro dei giovani sono stati asfaltati da Renzi in cambio chi, scusate l'espressione, tromboni che hanno letteralmente ripreso il partito. Quindi forse un esame di coscienza i suoi luogotenenti diretti, devono farle. Ma credo che più che un esame di coscienza partiranno le solite battaglie. Ah, tra l'altro, Oscar, mentre eravamo in pubblicità... Sindaco, c'è un sindaco. Esatto, visto che si parla di sindaci, ragazzi, hanno arrestato il sindaco di Lavagna, in provincia di Genova, con l'accusa di 'ndrangheta. Questo ecco, dice... Per dire dice poi, perché la gente poi riduce Lanza. La scelta al nuovo contro il vecchio. Esatto. 8 persone arrestate, 3 sottoposte a misure cautelari, Lavagna in provincia di Genova. Va arrestato il sindaco. Vabbè, questa notizia che andrà approfondita. Direttore Mulè, insomma, si diceva ha perso Renzi, questo almeno pare lo stesso Renzi ammetta come batosta. Certo, c'è un centrodestra che non è che può guardare con grande ottimismo a quello che viene dalle amministrative, soprattutto la situazione di Berlusconi, o no? Allora, intanto c'è da guardare un voto, come avete detto voi già fino adesso, in termini qualitativi e quantitativi, cioè i voti sono tutti uguali, ci mancherebbe altro, però è un fatto che da nord a sud, dal Friuli alla Calabria, insomma, i comuni che sono passati, le grandi province, i grandi capoluoghi passati dal centro-sinistra al centro-destra o grillini, sono veramente tanti e assai importanti. Novara, Trieste, Pordenone, Grosseto, Brindisi, Benevento, per non parlare di Torino, di Roma, ma anche di Olbia. Trieste, sì, sì. Allora, c'è una, evidentemente c'è un, non è un campanello d'allarme. Guarda, qui suona una campana, non dico che suona morto per Renzi, ci mancherebbe altro, ma c'è una campana grande contro grande quanto una casa che Renzi non ha voluto sentire. Cioè Renzi ha continuato a insistere in questa narrazione fino al 16 di giugno con il No IMU Day, pensando che ancora la storytelling degli 80 euro, del Noini, del Jobs Act, facesse breccia, quando in realtà i numeri si sono incaricati di dire che queste misure, soprattutto il Jobs Act, erano misure palliative, che non hanno dato quello che non dovevano dare. Quando si dice il voto dei comuni è un voto a sé stante ed amministrativo, si dice una parzialissima verità, perché non si può pensare che a Bologna, così come a Torino, a Roma o a Milano, milioni di persone vanno a votare pensando soltanto alla buca delle strade o soltanto all'incrocio che non è regolato dai vigili. Si fa un torto alla verità. Si fa un torto, c'è un voto anche nazionale, dice. È assolutamente un voto nazionale, cioè dal nord al sud il paese ha voltato le spalle a Renzi, perché laddove non si sono affermati i candidati del PD c'è stata un'umiliazione dei candidati, cioè sono stati umiliati, ma umiliati da casa della Serracchiani, vice segretario del PD, a casa di Renzi. Cioè Torino non è tanto la roccaforte, è come quando cadde Bologna sotto Guazzaloca molti anni fa, dal centro-sinistra al centro-destra. Cioè qui parliamo a livello politico di fatti epocali, Roma è epocale. Però paradossalmente Renzi è quello che dice: a Torino perdo perché non ho rottamato abbastanza, quindi viene punita la vecchia classe dirigente. Ma sicuramente sì, l'ascoltatore di Catanzaro, ma guardate che in Calabria, cioè Renzi si sveglia la mattina perché la candidata non passa, allora prende il lanciafiamme, ma lui è da mesi che in Basilicata, in Calabria, in Sicilia, il suo sottosegretario Faraone sta imbarcando, ma voi non avete idea, cioè basterebbe leggere, non dico Panorama, per carità, ma qualche sito, andatevi a vedere la compagnia di giro che ha imbarcato il PD siciliano, che tiene in piedi un presidente che si chiama Crocetta, e mi fermo per carità di patria. Poi parlate del debito di Roma, ma sapete, Oscar lo sa certamente, il debito accumulato dalla regione Sicilia in questi anni, per non tirar fuori il populismo dei 40 milioni. Ma chiaro, quindi insomma, un'ammazzata. Non lo vuol guardare in faccia? Bene, prenderà lo schiaffo finale, e sarà soltanto colpa sua aver diviso in maniera verticale questo paese, perché il paese è diviso in maniera verticale per un'unica responsabilità di un Presidente del Consiglio che non cerca mai né il dialogo né soprattutto su temi assai delicati come la nostra Costituzione, che non è una legge sulla quale se perdo me ne vado, se perdo rimango. È una legge che va oltre Renzi, è una legge che supera Renzi. Guardate il risultato di questa amministrazione. Ma lo scontro frontale, diciamo, esatto, vedete cosa succede? Lo scontro altro frontale. Beh, insomma, Padellaro diceva prima perde a questo punto al referendum, però sai, poi bisogna vedere. Lo dicevano i sondaggi che sono stati presentati ieri, prima che partissero gli exit poll, nei primi minuti dalla mattina alla 7, i sondaggi fatti ad hoc, cioè fatti contestualmente a quelle sulle elezioni, dicevano che perde. Sì. Non so, Padellaro, però cosa deve fare Renzi, secondo te, a questo punto? Perché qualcuno dice dovrebbe lasciare la segreteria del PD, lui dice già no, assolutamente non mi dimetto, non lascio niente. Questo gli chiederà la minoranza del partito, ovviamente. Sì, la minoranza del partito, che deve anche farci un solenne esame di coscienza, perché diciamo la verità, questa minoranza non è che si sia fatta valere in questi anni per, no, avendo presentato proposte alternative, uomini alternativi a Renzi che potevano in qualche modo, no, insidiare il potere di Renzi. Quindi non lo so, adesso si aprirà, sì, purtroppo si aprirà questa guerriglia di nuovo, perché si dirà problema della segreteria. Io penso che un altro leader un altro segretario del Partito Democratico, se ci fosse stato, per esempio, faccio un nome, Enrico Letta, Enrico Letta sarebbe a casa come segretario del PD già da ieri sera alle 11. Ma non è questo il problema. Il problema è che Renzi deve ricostruire dalle macerie, perché sono d'accordo con quello che diceva Mulè. Lui ha trascorso questi 2 anni e mezzo, il lanciafiamme l'ha già usato, attenzione, lui l'ha già usato all'interno del partito e l'ha usato all'esterno, perché oggi è vero, io insomma la battuta ormai è banale, è un uomo al comando da solo, cioè lui rischia di restare solo, perché è evidente che poi siamo in Italia, ma poi sono i meccanismi della politica, una sconfitta di questo genere comporta comincia il fuggi, quindi io non saprei cosa consigliargli se non quello di intanto cercare di fare meno annunci e di cominciare a mettersi a lavorare sulla situazione economico-sociale di questo paese, che è drammatica. Cioè, noi stiamo a parlare della riforma costituzionale e le periferie di Roma e di Torino che hanno votato per i 5 Stelle sono delle periferie dove la condizione è quella che sappiamo, quella che alcuni giornali stanno raccontando. E io vorrei dire una cosa: Renzi a questo punto e il PD dovrebbero anche ringraziare il Movimento 5 Stelle che ha drenato la protesta, perché sarà pure protesta, ma immaginate se non ci fosse un movimento che con tutti i suoi limiti comunque è dentro il meccanismo della democrazia, no? Quanta gente non sarebbe andata a votare? Sarebbe andata a votare il 10% degli elettori. Quindi il Movimento 5 Stelle in questo momento rappresenta un argine. Una protesta composta, dice. Una protesta composta. Comunque, sì. Comunque istituzionalizzata. Sì, che sì, ha una protesta. Bravo, istituzionalizzata. Che, ecco, è l'errore che Madornà, perché già ci stanno pensando, è quello di tagliare, come dire, i rifornimenti a Roma o a Torino, perché sono la Boschi su Torino lo ha già detto. Il cosiddetto ricatto. Certo che se passa l'Appendino noi quei soldi non li diamo, e di Roma non ne parliamo, quindi attenzione che non commetta Renzi l'errore di continuare in questa politica personalistica che ormai sta portando non soltanto lui ma anche l'intero paese al disastro. Però ecco, io chiedo a entrambi. Siamo abbastanza vecchi tutti e tre da aver visto per decenni la politica italiana e quella internazionale. I politici non è che possono dismettere il proprio carattere come un abito a seconda del tempo. Cioè Craxi era Craxi, Andreotti era Andreotti, Furlani era Furlani, Berlinguer e così via. Cioè immaginare che improvvisamente adesso di fronte a questa botta Renzi diventi, che ne so, un mix di Gentiloni e Guerini, cioè una persona capace di dialogare nel partito, fuori dal partito, che non attacchi i gufi, che non dica che chi non è d'accordo con lui o non capisce un cazzo, oppure lo fa per chissà quali nominabili interessi. Questo io mi piacerebbe pensare, però tendenzialmente non ci credo. Quello che vedo io è una persona che in 2 anni ha avuto la forza, in un vuoto di potere assoluto, di prendersi le aziende pubbliche come nemmeno ai tempi delle partecipazioni statali al suo comando, la RAI al suo comando, i regolatori finanziari fa quello che vuole, la Guardia di Finanza e praticamente ha nominato chi diceva lui e così via. Questo meccanismo può cambiare, come dice Antonio Padellaro, in un meccanismo inclusivo, rispettoso, eccetera eccetera. Ma i miracoli, proprio, ma ci vuole un miracolo della Madonna della Consolata oggi, non credi Antonio? Sì, no, ma sono d'accordo. Lui tanto ormai, diciamo, gli uomini suoi in alcuni casi, poi veramente gli amici del bar dello sport, perché attenzione che uno voglio dire, un presidente del Consiglio, un premier, anche se in Italia non c'è ancora quel premierato, ha il diritto anche di mettere le persone di cui si fida. Però, ma vogliamo parlare del livello, livello delle persone scelte. Aspetta, sentiamo anche Mulè che dice, ci credi tu nel miracolo? E poi c'è bisogno anche di un miracolo a destra, non abbiamo parlato, Giorgio. Ma insomma, tu hai elencato una serie di persone che, a torto o ragione, la storia si è incaricata di giudicarli per la loro capacità di leadership. La capacità di leadership di Renzi si misura con quella che lui stesso definisce essere il suo principale carattere, cioè l'arroganza, con un inner circle, cerchio magico, chiamatelo, cioè i grandi statisti, i gran commis che sono seduti con il Presidente del Consiglio sono Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Denis Verdini, parliamo di questa classe dirigente. Attenzione, quando ci sono state delle persone serie chiamate a occuparsi di argomenti serissimi, come tagliare su 826 miliardi di spese la spending review, sono stati mandati a casa uno via l'altro, perché erano troppo preparati, troppo seri per sedersi al tavolo con un Presidente del Consiglio che occupa in maniera militare il potere e in maniera assolutamente, come dire, arrogante, rifiuta qualsiasi, non tentativo, ma anche qualsiasi modalità, non di dialogo, ma di rispetto di chi sa fare quello che deve fare. Guardate che altro che azzeramento della segreteria, quando il risultato di un partito si misura con 20 capoluoghi amministrati, oggi ne hanno presi 7, da nord a sud, perdendo, ripeto, roccaforti straordinarie. La segreteria del PD in tempi antichi, Letta, Bersani, sarebbe stata azzerata, sarebbero stati mandati a casa, avrebbero preso soltanto, come dire, atto di una sconfitta che non si discute. Non c'è una città in cui il PD vince in maniera decisa, o vince in maniera rosicata, o perde in maniera devastante, sì, o perde con il triplo dei voti, il doppio dei voti che gli danno gli avversari, o vince col 51,8, col 50,2 e perde laddove era al governo. Quindi è evidente che il problema è enorme. Renzi non cambia, quello è. Infatti, per concludere, c'è da dire che le agenzie dicono che Renzi ha anticipato, caro Oscar, al 24 giugno la segreteria era il 27, ha anticipato al 24, anche perché il 24 si dovevano incontrare quelle della minoranza, quindi ha giocato d'anticipo la direzione del PD, non la segreteria, la direzione del PD. Vabbè, staremo a vedere che succede, ovviamente. Abbiamo graziato la destra oggi, però ce ne occuperemo, perché non si può parlare di tutto in pochi minuti. Abbiamo graziato anche il marito della Raggi, che ha scritto questa lettera straziante, dolorosa. Dicendo è un momento difficile, proprio nel giorno in cui diventa sindaco. Ha fatto il gesto un po' del micio bastonato, che non funziona molto con le donne, ma non funziona neanche in pubblico per lui. Io sono solidale con lui, è una vicenda dolorosa umanamente. No, lo so, però ha deciso di mettere in piazza, insomma, a spiegare in pubblico che è finita tra lui e la Raggi, ma lui, io ti starò sempre vicino. Vabbè, ci sono dei figli di mezzo, e comunque un altro. Certo, è la missione di una sconfitta, che però è un via libero dal punto di vista sentimentale, umano, al sindaco. Esatto, alla Raggi. Va bene, dai, ci fermiamo qui e noi ci ritroviamo domani. Grazie a tutti.